Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati. C'è una buona notizia sul fronte dei rapporti difficili tra cristiani e musulmani. Una notizia che arriva dall'Africa, dove al confine tra il Kenya e la Somalia un pullman carico di passeggeri cristiani e musulmani è stato assaltato da un gruppo jihadista. È una notizia di qualche settimana fa, ma che è passata quasi inosservata qui da noi. E questo gruppo jihadista ha intimato ai cristiani di scendere per ucciderli, ma a quel punto sono stati gli stessi musulmani a intervenire salvandogli la vita. Ecco, Stella Pende è lì per raccontare questa storia in una puntata del suo programma Confessione Reporter. Stella, allora, ci racconti qualcosa di più? Allora, dunque, è... intanto dove è capitato esattamente? Dunque, intanto questo atto di vero eroismo è capitato a Helwat, che è veramente una piccola città di confine proprio tra la Somalia e Kenya del nord. Questo pullman parte da Madeira ed è una coincidenza incredibile, perché la compagnia Macca del pullman, il pullman è KS6, ti do dei dettagli incredibili, lo stesso pullman che il 22 novembre del 2014 è stato assalito da Al-Shabaab, che ha ammazzato 28 cristiani. Quindi un pullman che porta sfortuna, diciamo. È un pullman che viene scortato regolarmente. Questa volta e quella volta non è stato scortato, quindi immaginati a che punto siamo. Cioè, questi aspettano solo che passi qualcuno senza scorta, perché l'autista, il driver Shukri Krar, aveva fretta, doveva caricare, infatti c'erano 68 persone a bordo. Cosa è successo? Escono gli Al-Shabaab dal bush, sparano e uccidono, sparando mentre il pullman si ferma, due persone, feriscono l'autista, il quale blocca le chiusure della macchina e lascia il tempo, perché gli urli dentro gli dicono lasciaci cambiare i vestiti. Le signore musulmane passano i loro veli alle signore cristiane, insomma si mischiano i vestiti, si mischiano anche i bambini, dopodiché si aprono le portiere delle macchine, le serrature, escono delle persone con per mano dei bambini e uno dei leader del pullman dice benissimo, noi questo è un bambino cristiano, l'altro è un bambino musulmano, tu non sai chi dei due è cristiano, chi dei due è musulmano, se vuoi ci ammazzi tutti e tre, e per gli altri è la stessa cosa, noi non ci dividiamo. Perché noi siamo popolo perché la richiesta era stata quella di dividere i cristiani dai musulmani. Esatto. E i musulmani fanno da scudo in qualche modo dicendo siamo tutti uguali. I cristiani devono scendere dal pullman, mettersi a pancia in sotto, gli altri devono recitare il Corano e così comincia il massacro, capisci? Questa volta comincerebbe il massacro, sì. Comincerebbe, perché questa volta il massacro è fermato dall'eroismo di questi, di questi kenioti pastori operai che danno una lezione di umanità e di grandezza che nessuno fino adesso ha dato. E quindi sostanzialmente i jihadisti si arrendono, diciamo così, in qualche modo se ne vanno? Cosa fanno? Secondo me, se vogliono ammazzare, ammazzano comunque, perché allora si mettono lì e dicono... Sì, ma nella fattispecie cosa capita? Ma non lo fanno! Non lo fanno! No, capita che rimangono inebetiti, mi racconta l'autista Shukri Krar, il quale dice rimangono inebetiti, non sanno più che fare, sparano colpi in aria per spaventarli, ma non succede niente, perché questi sono fermi nella loro decisione. Nel frattempo, cioè la sostanza è o ammazzate tutti noi o nessuno. O ne ammazzate 68, perché sono kenioti e sono fratelli kenioti e non ce ne frega se sono cristiani o musulmani, oppure Niente. Ci salvate la vita. Capito? Nel frattempo arriva un altro pullman dietro, perché arriva un altro pullman dietro, che si ferma, e questi sono, dall'atto di eroismo e dal casino che succede, si ritirano. Si ritirano e non succede niente. Sì, ci sono due morti, ovviamente, perché però insomma l'atto di eroismo rimane, e per il Kenya è una grandissima cosa. Ma io credo che sia un esempio per tutto il mondo, perché credo che questi musulmani veramente, cioè, insomma, i popoli quando non sono strumentalizzati fra loro fraternizzano. Questo poi è un pochino la morale. L'Africa ci insegna questo, capito? Bene. Che nella fratellanza non ci può essere differenza di religione. Ecco, per commentare queste notizie 800 24 00 24, per le telefonate 349 238 6666, per gli SMS. Pietrangelo, mi sembra una notizia interessante. Forse non è strano che la stampa occidentale, io parlo della nostra stampa, abbia ridotto a un trafiletto in questo evento, no? Sì, perché c'è sempre la necessità di far sentire l'odore del sangue nelle notizie. Invece noi abbiamo l'urgenza di raccontare le cose, sia nel male come nel bene, nel raccontarle per intero. Faccio un altro esempio. Nel giorno di Natale, in Iran, Khamenei, e stiamo parlando quindi della guida suprema, che corrisponde al leader di tutta l'Iran, oltre che della comunità islamica, come ogni Natale è andato in visita alle famiglie dei martiri cristiani. Per martiri si intendono le famiglie i cui figli, mariti, sono morti nella guerra Iran-Iraq. È andato lì, come ogni anno, a visitare le famiglie dei cristiani, e la sua dichiarazione è stata inequivocabile. Nell'Islam, chiunque neghi l'infallibilità del nobile Gesù e della nobile Maria è uscito dalla religione islamica, e questo è il nostro rispetto nei confronti del cristianesimo. Questa notizia ovviamente non è stata data. E questo forse sono invece gli elementi che servirebbero per ricucire o per spiegare, perché poi alla fine possiamo dirlo, è l'ignoranza per la prima malattia che spinge alle lotte e alle guerre, no? Non sappiamo niente gli uni degli altri poi alla fine, sostanzialmente, quindi la strumentalizzazione diventa facilissima. Che dici, Mario? No, che sì, che l'ignoranza sia la prima fonte di tutto, certo, più dell'economia, secondo me. Non è vero che, per esempio, il terrorismo è strettamente legato a condizioni, diciamo, disagiate di povertà. Abbiamo visto cosa è successo in Europa, la matrice di alcuni attentatori e così via. Penso che l'ignoranza sia la fonte principale di tutto. C'era Pietrangelo che voleva forse dire qualcos'altro. No, e chissà quante ce ne diranno. Certo. Adesso, per avere dato queste notizie. Ah beh, ma questo siamo abituati oramai, vabbè, insomma, ognuno si prende quello che è figlio del proprio modo di stare al mondo. Ecco, c'è un'altra buona notizia, perché abbiamo deciso di partire oggi con delle buone notizie. Questo nuovo anno è l'anno nel quale, da pochi giorni, da una settimana, Fabiola Gianotti, prima donna a dirigere il CERN di Ginevra, si è installata appunto al CERN, che è il più importante laboratorio di fisica delle particelle a livello internazionale. Fabiola Gianotti, specializzata in fisica subnucleare, è fra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, ne abbiamo parlato più volte, cioè il bosone di Dio. Oggi è a capo di migliaia di scienziati che provengono da ogni parte del mondo, un altro luogo nel quale si pensa e si cerca insieme al di là delle religioni e delle nazionalità. Ecco, la Gianotti, lei è arrivata dove è arrivata? Partendo da studi classici, latino, greco, filosofia, è così? Sì, sono venuta dagli studi classici che mi hanno dato una formazione molto completa. Ecco, ma che cosa le ha dato questa formazione, la formazione classica, che quella scientifica non le avrebbe dato? Beh, è stata una formazione complementare, mi ha dato l'amore per gli studi antichi, per la storia, per la letteratura, per la storia dell'arte, quindi consiglierei un percorso simile a giovani che vogliono intraprendere poi l'attività scientifica. Ecco, ma quando ha scoperto la fisica vera e propria?

Purtroppo quando si mandano certe notizie ci sono sempre quelli che parlano di buonismo. Ci prenderemo anche l'accusa di buonismo. Noi buonisti. Noi siamo buonisti, prima dicono cattivisti, buonisti. I media dovrebbero enfatizzare le notizie positive, non viceversa, dice Paolo. Allora forse le cose migliorerebbero, chissà. Chissà, in questo mondo che è così difficile ogni tanto. Però un po' ansiogeni insomma, vogliono il sangue. E sentiamo che cosa ci propone Pietrangelo stamattina. E allora la vita si può concentrare in un giorno ed è questione di tagli. Se il togliere porta all'essenza, allo sguardo, ed è un lavoro tutto di stupore di una parola sola, giorno. E quindi si smette di vedere sbriciolare il tempo. Ha chiamato Don Chisciotte stamattina, ha chiesto questa chicca, questo brano, Beirut, Santa Fe, e non ha voluto dedicarlo a Dulcinea. No. E a chi? Niente Dulcinea oggi. Ha detto, non è per Dulcinea. Ma a chi? Beirut, Santa Fe. Ormai le tiene tutte... Tutte sotto controllo. Sì. No, soprattutto anonima. Non ci dice più niente, vabbè. Peccato. Anno nuovo, vita nuova, quindi sì, ha trovato un'altra strada. Guarda che lui... Senti, uno ci scrive, senti che bella cosa che ci scrive un ascoltatore. Grazie Minoli, adesso posso andare a lavorare orgoglioso e pieno energia dopo l'intervista della Gianotti. Grande buone, talento, no? Ma c'è un sacco di gente che ha talento in questo tanto, paese. Per fortuna. Tanto. Se non ci fossimo già andati giù. Saremmo andati. E tu con la tua bolla? Un po' di realtà, racconta? Dal sogno alla realtà. Dai. No, sogno. Vi dico subito che sono molto rivolto al passato nelle mie scelte musicali, sì, stamattina. Sì, questi sono i Creedence, Fortunate Son. Sì. E insomma, sull'onda di questo pezzo meraviglioso, parliamo del meraviglioso momento che stanno vivendo i mercati finanziari. In realtà il 2015 è stato un anno da record, addirittura Milano è stata la migliore borsa. Il 2008 sta iniziando male. Malissimo. L'Asia... Perché 2008-2016? Cioè, assomiglia al 2008, vuoi dire? No, c'è una logica in questo errore. Dimmela. Perché pensavo alla crisi del 2008. Appunto. Allora, il 2016 comincia male. Comincia male perché l'Asia, la Cina, ha problemi di stabilità sia con la moneta sia con la produzione industriale e la manifattura, che non va bene da molti mesi, quindi ci sarà un rallentamento dell'economia globale e soprattutto Pechino sembra non riuscire a governare alcuni suoi fondamentali dei mercati, in particolare le fluttuazioni che sta avendo appunto la sua moneta. In questo momento c'è da tenere d'occhio quello che dice, e ve lo segnalo, George Soros, che è un vecchio volpone della finanza internazionale. Fu il tipetto che mandò giù la lira con una speculazione sterlina pure nel 92 con una speculazione incredibile, e lui dice che siamo all'inizio di una crisi economico-finanziaria, non si sa di che portata. Consiglia agli investitori, quindi io ve lo riporto, di essere molto cauti. Pensa che la Cina sia un problema, pensa anche che ci sia da aggiungere la cosiddetta salsa dell'aumento dei tassi di interesse americani, che potrebbero essere un problema per i paesi emergenti. C'è appunto il flip-flop della moneta cinese e poi fate voi le previsioni. Tu mi diresti che io sono un pessimista, io ti rispondo ovviamente, Giovanni, che in realtà, come diceva Winston Churchill, un pessimista è un ottimista ben informato. E la risposta finale però a tutto questo bellissimo quadro che abbiamo fatto, uno scenario tragico ma che forse nei prossimi mesi migliorerà e così via, ce lo dà il buon Gordon. Ma che gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse bare non morirebbe più nessuno. Mario, però, se vendesse bare. Io voglio sapere una cosa. Tu dammi una tua valutazione di George Soros. Grandissimo speculatore, e bravissimo. Basta. No, perché sì, dato che fa tanto il filantropo. Lui sì, fa anche il filantropo, sì, però è, insomma, lavora col denaro, è bravissimo. Ma lui non ha mai rinnegato quello che fece con la lira, l'attacco alla lira, lo ha sempre rivendicato. Lui diceva: io disponevo di quelle informazioni che anche altri avevano, ho giocato sul mercato, vi ho affondato. Quello è il suo mestiere. Va bene. Non si è mai pentito di questo. Senti, qui noi ci svenammo. Dato che prima ci dicevamo buonisti, mica buonisti, sì, uno ti scrive: sei chi? Sì. È guerrafondaio, non buonista. No, io non sono buonista. No, non sei mai stato, io sono realista. Va bene, realista. Salamino. Padre nobile, non più candidabile. La democrazia è sospesa. Tutti e i 5 Stelle sono in agguato. Insomma, chi è a parlare? Grande ritorno. È Silvio Berlusconi a parlare ed è stata la sua prima uscita del 1929, Mario? Chi? Siamo nel 29 adesso? Siamo sì, nel 29. Sì. Io ho detto che eravamo nel 2008, quindi ci sta tutto a questo punto. Un po' di confusione sana. Caos organizzato. Sì, sì. Incandidabile dunque, ineleggibile, ma pur sempre nobile. L'obiettivo dice puntare al 40% per il centrodestra. Ma quando? Sì, sì, perché lui dice che bisogna arrivare al ballottaggio. Ma dove? Ma ci saranno le elezioni, perché pur essendo sospesa la democrazia arriveranno le elezioni e dice vincesse pure Matteo Renzi, perché la mobilia, almeno quella è salva, perché Giovanni, lui sostiene che se vincono i 5 Stelle gli vendono le televisioni, anzi gliele privatizzano, insomma si prendono tutte cose, cioè, sono già private, sono già private, sono su, le privatizza lo Stato. Ma va, le espropriano. Nel 29 gli faranno questa cosa, insomma lo rovinano. Allora questo è un po' un racconto che arriva da Balzac, che con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa lo scrive oggi su Repubblica. È tornato anche Lo Papa nel 2016, ma sì, nel 29 torna tutto. Calabresi ha assunto la direzione. No. Ora c'è la festa, il 14. Il 14, sì. C'è la grande festa, i 40 anni di Repubblica. Certo. Con Ezio e Ziuccio, lascia tutto. C'è De Gregori che canta, poi c'è anche Antonello Venditti, poi insomma pubblico... Il giovane emergente. Vabbè, torniamo a Silvio. Perché poi c'è anche il feste di Sanremo che sarà dedicato al quarantennale. Ma e Calabresi partecipa alla festa dei 40 anni? No, sì, perché lui arriva 40 anni dopo. 40 ma non li dimostra. Grande commedia di Peppino De Filippo. Certo che se la cava sempre in corner. Certo che nel 29 succede di tutto. Sì, cioè, dite le immagini, quest'anno non c'è più Mauro e c'è Calabresi. Io sono disperato. Vabbè, dai. Comunque, lo volete sapere questa storia dell'ineleggibile? Però io a questo punto che cosa faccio? Cambio musica! Ah, cos'è? Il twist della ricotta! Ma che? Eh sì, il twist della ricotta per raccontarvi che cosa sta succedendo in questo disastro di Forza Italia, di PDL o di Casa delle Libertà, che dir si voglia, perché, insomma, l'ultimo che chiude la porta che cosa ha combinato? Che... il vecchio se ne va, il nuovo non arriva, però un deus ex machina, un risolutore, un commendatore, un protagonista c'è. Chi non è Silvio, no, non è Matteo Renzi, no, ma il nostro bene amato Denis Verdini, il quale, tutti in piedi, documenti alla mano, affida ad un suo fido Parisi, un deputato, adesso giornalista, che scrive il patto del Nazareno. Però lì è il linguaggio che ci cattura, perché c'è tutto un ragionamento dove il contropelo arriva alla controstoria. Insomma, fare del cavaliere un pregiudicato, uno dei padri fondatori della Terza Repubblica. Questa è l'argomentazione principe. Ma la cosa bella qual è? È stato sempre accusato Denis Verdini di essere amico del giaguaro. Mm. E invece è il ritratto che fa dei giaguari, che è meraviglioso, dei Leopoldi, questa masnada di Renzi, che dice non è un mirabile cenacolo di Pico della Mirandola. Per esempio Luca Lotti, chi è secondo Denis? Oggettivamente un modesto. Deborah Serracchiani, per esempio, chi è per Denis Verdini? È una che studia faziosità da Rosi Binti. Un complimento, Giovanni, lo riserva soltanto a Marianna Matini. Beh, naturalmente. Perché... E noi lo sottolineiamo, così bene. Giovane, eppure con una lunga vita politica alle spalle, come il celebre titolo di Gassman, no? Un grande avvenire, dietro le spalle. Invece Federica Mogherini, che cos'è? È la solita solfa, pacifista, femminista, europeista. Giusto. Ma infine... Lei! Lei! Maria Elena! Lei! Dai! A musica! Lei! Maria Elena Boschi, nella prosa di Denis Verdini, è bella, certamente bella, a dir poco bella, più adatta però, vabbè, ma leggetevi il libro. Lanciati tutti così i libri, vendono un milione di copie, rilancia le librerie in Italia. Antonio Nazareno. Comunque Denis è un grande ritrattista. Certo, accidenti. Antonio da Como, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e grazie. Dica, grazie per avermi dato questo spazio. Dica tutto. Io vi volevo ringraziare per la notizia di questa mattina legata al pullman keniota. Faccia attenzione che gli danno del buonista, sì. No. Esatto, mi meraviglio di quelli che parlano di buonismo in un momento dove veramente si sente solo ed esclusivamente parlare di notizie negative. Ho acceso la televisione prima di mettermi in macchina. Ed è veramente un disastro, qualsiasi notizia ti arriva addosso come se fosse un treno in corsa. Ricevere queste notizie è come ricevere un barlume di speranza anche su temi molto delicati come questo. Quindi quello che mi sento di dire agli altri ascoltatori è prendiamole come quel pizzico di zucchero che ci vuole nel caffè la mattina. Grazie Antonio. Mi permetta, dottore. Non dimentichiamoci che questa notizia arriva... esattamente il giorno delle commemorazioni di Charlie Hebdo, dove anche in quel caso erano tutti francesi, però ahimè vittime carnefici non si misero d'accordo. Esatto. Quindi va bene, ha fatto bene a ricordarlo. Grazie Antonio. Mario, c'è la bolla ancora? Sì. Un po' di musica. Questo è un grandissimo Phil Collins dannata, You Can't Hurry Love, lo facciamo sentire? Ce l'abbiamo bene. Oh, allora, Minori, dimmi. Volevo dirti questo, la Germania va forte, mi dispiace, però questa è la situazione. La manifattura tedesca funziona, gli ordini a novembre sono saliti a sorpresa più 1,5% contro tutte le previsioni, certo, che davano un aumento minimo. Anno su anno gli ordini nel 2015 sono cresciuti del 2,1%, la previsione era più 1,1%. Questi sono numeri di un'economia importante, sana, che funziona, che ha un modello, che può anche commettere molti errori come tutti quelli che fanno, perché sai che si dice chi non fa non sbaglia, no? Certo. Però è anche la forza di un sistema che ha un commercio estero molto forte fuori dall'eurozona in particolare. Pensate che la Cina conta il 7% oggi dell'export cinese, è in aumento, e dunque ecco perché dobbiamo guardare alla situazione cinese, perché un nostro partner importante, la Germania, cioè il primo partner, la lavora con la Cina per i tedeschi è fondamentale. Quindi se Berlino ha il raffreddore noi non stiamo bene, e se Pechino sta male alla fine siamo male tutti, e quindi stiamo male. È un'economia connessa, interconnessa, vantaggi e svantaggi. Esatto. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Before being a cosmetics brand, Helena Rubinstein is first of all a destiny. Prima di essere un marchio di cosmetici, lei è un destino. Così un'irresistibile pubblicità celebra Helena Rubinstein, la prima imprenditrice che ha saputo coniugare la scienza con la bellezza, la ricerca con il successo. Ha creato un impero economico, ha vinto molte sfide senza mai incontrare la felicità. Helena Rubinstein, storia di un'ambiziosa ebrea polacca che seppe diventare ricca, famosa e nobile. Testimonianze inedite, rivalità dolorose e segreti nascosti. Qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Una grande storiona questa di Helena Rubinstein, e andiamo col canzoniere. Insomma, tu chi sei? Parte di quella forza che vuole sempre il male e produce sempre il bene. Cosa vuol dire questo indovinello? Sono lo spirito che sempre nega, e con ragione, perché tutto ciò che nasce è degno di perire. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS è un aiutino piccolino. È facilissimo, è lo spirito del tempo. Lo spirito insomma, del tempo, è facilissimo, mi raccomando. Ho dimenticato di dire che è di Rachele Bonanni la storia di Helena Rubinstein. E intanto Mario, c'è ancora una bomba. Ma faccio un aggiornamento. Avevamo un brano jolly, ce l'abbiamo ancora. Questo è il posto, lo senti? Vabbè, è un rullo di tamburi, è uno schitarrar che dolce non è, ma molto graffiato, per dire che cosa? Che la borsa purtroppo, come avevamo previsto, viste anche la chiusura di quelle asiatiche, sta andando male, ha aperto sotto. A quanto ha chiuso? In Asia hanno fatto anche meno 7, quindi lasciamo stare. Ah. Qua in questo momento è a meno 2,38. Milano? Sì. Sì, non è una bella giornata, diciamo, però sai, ogni seduta ha la sua storia in borsa, quindi infatti dobbiamo solo aspettare. Abbiamo qualche vincitore del canzoniere? Non ancora, dalla regia mi dicono no, nessuno malgrado il segno dei, ma facciamo, risentiamolo, va? Insomma, tu chi sei? Parte di quella forza che vuole sempre il male e produce sempre il bene. Cosa vuol dire questo indovinello? Sono lo spirito che sempre nega, e con ragione, perché tutto ciò che nasce è degno di perire. C'è qualcosa? C'è qualcuno? Niente, non indovino, l'aiutino. L'aiutino, dai, sì, dai, Pietrangio, sì, buono. Dai il titolo, ma no, quasi. No, come? No, non devi indovinare loro. L'aiuto, sì, è uno dei capolavori della letteratura mondiale. Qualcuno poi forse scrive, ma insomma bisogna vabbè, telefonare. È scritto in lingua tedesca. Vabbè, non c'è niente, va bene. Intanto, adesso con il professor Bernabei, invece commentiamo, come sempre, le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Science, dicembre 2015. Rivisitare il rapporto tra vitamina C e cancro. Negli anni 70, il premio Nobel due volte Linus Pauling sosteneva che bisognava assumere enormi quantità di vitamina C per combattere il cancro e averci una buona salute, una migliore salute in generale, tanto che ne assumeva fino a 10 grammi al giorno, una quantità impressionante, ed era un premio Nobel addirittura due volte. Negli anni 70 e negli anni 80, spinti da questa osservazione, da questa ipotesi di Pauling, che per sé assumeva i 10 grammi di vitamina C, furono fatti dalla Mayo Clinic due grandi studi per vedere se utilizzare o somministrare tanta vitamina C proteggeva dal cancro. Beh, i due studi furono assolutamente negativi. Da quel momento allora un pochino la vitamina C è caduta in disgrazia, perlomeno nel corpo medico, anche se sotto traccia rimane molto utilizzata dalla gente che pensa che abbia virtù terapeutiche, perché viene spacciata o viene venduta come antiossidante. Breve parentesi, radicali liberi, antiossidazione, è una roba che leggete ormai tutti i giorni, perché certo, qualsiasi crema di bellezza o papaya o pillola magica si dice che abbia proprietà antiossidanti. Ma forse ce l'avrà anche tutta questa serie di composti, però certo è che noi nella pratica clinica quotidiana e nella scienza l'antiossidazione l'abbiamo praticamente buttata in un cassetto, perché non si è rivelato che faccia nulla di bene. E ce lo conferma oggi uno studio che Science riporta e cita, dicendo che la vitamina C protegge e ammazza le cellule del cancro del colon, ma con un meccanismo ossidante, cioè l'opposto. Ci sono alcuni cancri del colon che hanno una particolarità genetica che non vi sto a dire perché è troppo complicata, ma che fa sì che queste cellule assumano la vitamina C, che per le caratteristiche ossidative che ha invece le fa morire. Quindi vedete come la storia della scienza è complicata e si va dall'alfa all'omega e avanti e indre. Però certamente questo ci dice che la vitamina C qualche cosa fa. Fa bene. Forse tutto da scoprire. Un avvocato calabrese che vive a Roma, l'avvocato Romeo, ha indovinato, dice facilissimo, il Faust. E infatti, bravo l'avvocato Romeo. L'avvocato Romeo che ha vinto. E per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto Ogni volta di Vasco Rossi. E ogni volta che mi ritorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno. E ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente.